morto il telefono sabato, okay. E sono riuscita a comprarlo prima di partire per Londra. Brava. Quando parti? Oggi. Ah, oggi, fantastico. Ti ho beccato in tempo per un saluto a Coxo Spaziale, ma dunque non tornerai mai più? Ma a me dispiace pensare di interrompere una relazione, sono uno scorpione, sai, cioè, anche se, cioè, poi io credo nelle rinascite. Vabbè, io ti aspetto come tu hai aspettato me, dai. Like the purple in the air. Questo era il sonoro di Through the Goblin Gateway di Dylan Marsh e Eleanor Clare ed era l'ha registrato all'inaugurazione della mostra Cold Current ad Hyacinth, di cui vi avevo parlato la settimana scorsa. E effettivamente a Bologna in questo momento ci sono, per gli amanti della sound art, ci sono questa mostra da non mancare. Mi raccomando, andate di sotto perché c'è questa installazione abbastanza inquietante ma molto interessante, decisamente merita una visita, ad adiacente in vicolo Santo Spirito, se non sbaglio, e proprio dietro alla casa di Lucio Dalla. E l'altra invece è quella di Liliana Moro alla Galleria De Foscherari, dove c'è un'installazione sonora di cui voi diventerete parte. Non ve la faccio sentire perché dovete andarla a vedere e a sentire voi stessi. Arte contemporanea. www.coxospaziale.blogspot.com e per email coxospaziale@gmail.com. Lì potete spedirci degli MP3 come ha fatto Haru Suzuki, che adesso ci apprestiamo ad ascoltare. Troverete anche su domani su www.coxospaziale.blogspot.com il link sul suo canale di Lizzy FM, che è una radio online, cioè una sorta di social radio online cinese, dove il suo nome è Su Sugaru, Sugari Sugaru, Su Sugari Sugaru, Star Media, non lo so. Comunque è tutto scritto in cinese ed è difficilissimo navigarci. Grazie a lei ci sono riuscito e possiamo ascoltare questo pezzo fantastico. Coxospaziale. Stavo leggendo la versione cartacea di Art Tribune di marzo-aprile 2018 che mi arriva per posta per qualche motivo sconosciuto, e c'è questa storia abbastanza inusuale, abbastanza strana, di una vicenda di plagio tra le opere di Emilio Vedova e di questo Pierluigi De Lutti, che nel 2007 appunto sono state esposte e commercializzate da una galleria d'arte. Interessante che anche Art Tribune pratica l'omertà per non raccontare chi era questa galleria. Questo De Lutti praticamente sembra che copiasse completamente le opere di di Emilio Vedova, uno dei maestri, maestro veneziano dell'informale italiano. E nel suo iter argomentativo, leggo sempre dalla Tribune, la Corte ha affermato che da una parte l'opera plagiata deve essere creativa, nel senso che deve consistere in una personale e individuale rappresentazione dell'autore, e che dall'altra parte l'opera plagiaria deve, per essere tale, deve appropriarsi degli elementi creativi dell'opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto creato ed espresso dagli altri autori. Nel caso Vedova versus Delutti, la Cassazione ha ritenuto corretto quanto già accertato nei precedenti gradi di giudizio, cioè che le opere di Delutti erano pressoché sovrapponibili a quelle di Vedova. Interessante questa cosa. Naturalmente anche la Galleria d'Arte è stata resa responsabile. Infatti dice: un altro passaggio interessante della sentenza della Cassazione è quello relativo al ruolo svolto dalla Galleria d'Arte, che ha commercializzato, esposto e venduto anche tramite televendita le opere plagiarie. La Corte ha confermato che la Galleria è responsabile in solido con l'artista per i danni subiti dalla Fondazione Vedova, poiché in quanto operatore professionale la Galleria deve adempiere ha un dovere di specifica diligenza professionale e verificare che le opere poste in vendita non siano plagiarie. Perché effettivamente in Italia c'è questa situazione abbastanza particolare, nel senso che ci sono alcuni artisti, naturalmente non faccio i nomi per evitare di essere querelato, anche perché rischierei davvero di perdere la querela. Dicevo, ci sono alcuni artisti del secolo scorso, diciamo, cioè del Novecento, che purtroppo sono morti e dipingevano in maniera abbastanza facilmente riproducibile. Cosa succede? Che i familiari hanno formato queste sorte di fondazione, associazioni, in realtà sono fondazioni con il nome dell'artista, che sono in grado di certificare l'autenticità delle opere del defunto, dei defunti, anzi, perché io sto pensando a ben 4 artisti importanti, famosi, che vengono riprodotti artificialmente in maniera quasi, come si può dire, industriale, in quantità industriale. Cioè è una cosa veramente vergognosa. E io mi chiedo perché questa cosa possa succedere, solo semplicemente perché i familiari di questi artisti defunti hanno il timbro e la certificazione e possono certificare quadri che sono blatantly, come si dice in italiano, palesemente falsi, ma palesemente falsi. Cioè io ho avuto per le mani delle opere di un artista famoso della pittura anni 60, e che se tu le giravi nel retro erano il legno delle tele era palesemente nuovissimo, proprio una tela prodotta negli anni 2000, ed era stato invecchiato con dell'acquerello marroncino per far finta che questo fosse un'opera antica. Cioè naturalmente se tu lo dai a qualcuno non esattamente esperto d'arte, oppure vendi quell'opera in una televendita, eccetera, puoi scavartela, cioè puoi fare che la gente non se ne accorga. In mano ad un artista o comunque qualcuno, un operatore del settore serio, un operatore del settore che comunque ha l'esperienza dell'arte, ovvero che ha visto tante tele degli anni 70, che sa che la polvere, per esempio, nel legno grezzo del retro del telaio si attacca in un qualche modo e tu puoi spolverarlo finché vuoi, ma gli anni di polvere dagli anni 70 a oggi sono decisamente visibili. Una piccola velatura di acquerello marroncino non ha lo stesso effetto, e si vede, e anche si vede anche nel leggero ingiallimento della tela non trattata, cioè della tela trattata ma non dipinta, che trovi nel retro delle tele. Per cui no, detto questo, poi ho cercato queste opere di questo Pierluigi Delutti online, che è naturalmente sono due problemi differenti, ma non ho trovato tanto, per cui così sono rimasto leggermente incuriosito. Comunque devo dire che se per caso siete in un qualche museo, per esempio a Bologna al Mambo, passate al Mambo, entrate nella libreria di Corraini per terra, proprio all'inizio, ci sono tendenzialmente ci sono pile e pile di copie di questo Art Tribune, che è uscito da poco, per cui probabilmente ne troverete ancora molte. E devo dire che questo numero, Art Tribune naturalmente è il portale dell'arte contemporanea probabilmente più importante che abbiamo in Italia, ma devo dire che questo numero è molto interessante. Ci sono c'è un sacco di contenuto, cioè sono più di 100 pagine, e è un free press, per cui è gratuito, e ci sono un sacco di articoli interessanti, tra cui appunto anche uno che parla di Gaudenzio Ferrari, questo artista rinascimentale che è autore della Crocefissione nella Cappella del Sacromonte di Varallo, che ho visitato, adesso è in provincia di Vercelli, scusate, infatti mi ricordavo che era zona Piemonte, che ho visitato forse 30 anni fa con Adriano Baciglieri, il mio fantasticissimo prof di storia dell'arte, che purtroppo ci ha abbandonato quest'inverno, lasciandomi veramente un buco nel cuore. Lui è l'uomo che è responsabile, perché è stato direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ed è stato responsabile del progetto Erasmus, di far entrare gli studenti dell'Accademia, quando ancora l'Accademia non era inserita nel mondo dell'università, cioè non era università, ma lui è riuscito comunque nel 1990 a inserire 12 studenti delle Accademie di Bologna e di Ravenna, tra cui me, nel primo progetto Erasmus. Erano proprio gli esordi del progetto Erasmus e io, grazie a lui, sono andato a Bristol per 3 mesi nel 1990, divertendomi naturalmente moltissimo. Bene, un attimo di musica e poi torniamo ad alcuni articoli di Art Tribune sull'arte contemporanea. Okay. Questo naturalmente era Rudy Canfeo dei Clash, da Sandinista, ma da London Calling, che abbiamo suonato anche la settimana scorsa, adesso che mi ricordo. Tornando al nostro numero di Art Tribune, uscito da poco, stavo per dire nelle nostre edicole, ma naturalmente non è così, perché essendo un free press si trova nei musei e nelle gallerie d'arte private, nelle associazioni, eccetera. C'è un articolo interessante che parla di un nuovo spazio che si chiama Crack di Terni e appunto c'è un'intervista a Chiara Ronchini, che ha aperto una piccola galleria, adesso non so quanto piccola, dalla foto sembrerebbe anche abbastanza grande, ma chi lo sa, a Terni appunto. E Chiara è stata per molto tempo, ha abitato a Bologna e ha gestito le mostre in un posto che si chiamava Sesto Senso, che probabilmente alcuni di voi ricordano, era in via Petroni, quasi in fondo a via Petroni, e era un posto che era nato come Circolo Arci, poi era rimasto Circolo Arci, ma era diventato, a un certo punto era un posto dove si potevano prendere i CD in affitto, ovvero si faceva una sorta di tessera mensile e poi, pagando veramente una quota ridicola, si potevano affittare i CD e naturalmente in piena zona universitaria quello negli anni 90 funzionava benissimo. Dopodiché nello stesso periodo aveva una sorta di sala un po' strana con un soffitto molto basso all'ingresso e un sacco di gente ha fatto delle mostre, tra cui anche persone importanti, Cuoghi e Corsello mi ricordo, curati da Stefano Questioli, e anche Blu e Erika il cane avevano dipinto tutto in maniera fantastica, insieme aiutati dal nostro caro Elia. Dopodiché a un certo punto nacque proprio lì all'inizio dell'ingresso un piccolo booth di Radio Città del Capo, che alle volte trasmetteva anche direttamente in diretta dal Sesto Senso. Dicevo, Chiara Ronchini, per, se non sbaglio, un anno o due è stata la curatrice delle mostre del Sesto Senso, infatti ricorda con affetto Bologna, dice: ho studiato al DAMS, in quegli anni gestivo una piccola galleria sotto i portici, quella è stata la mia scuola d'arte pratica più grande, quella teorica è stata mio nonno Adriano. Sì, perché Chiara effettivamente suo zio Lorenzo Ronchini aveva aperto una galleria a Terni, la galleria Ronchini, che adesso il figlio adesso gestisce a Londra, si sono spostati a Londra. Chiara invece appunto ha aperto a Terni da poco e magari una di queste volte la intervisteremo al telefono. Io devo andarla a trovare naturalmente, essendo lei una cara amica, e anche perché l'altra cara mia amica Esther Grossi, ottima pittrice anche lei di base a Bologna, a giugno inaugurerà una mostra da lei. E vabbè, oltre a questo c'è un altro articolo interessante sull'hashtag MeToo, il mondo dell'arte come guarda la rivolta delle donne, e giustamente il Santanastro, una delle brave penne di Art Tribune, ha intervistato un po' di donne del mondo dell'arte, proprio chiedendo loro che cosa ne pensano del Me Too. Il mondo dell'arte non è estraneo ai rapporti sociali e si organizza a partire dalla gerarchia implicita, tra parentesi e mai esplicitata, di una scala maschile di valutazione, in cui la donna occupa una posizione minoritaria, gap salariale, inferiore rappresentanza nelle istituzioni e nel mercato, attraverso la naturalizzazione delle asimmetrie di genere, la soggettivazione patriarcale dei ruoli, la cattura neoliberale degli immaginari femministi e dei suoi strumenti di rottura. La denuncia non è una postura vittimistica, gli uomini hanno molestato e continuano a farlo perché un sistema millenario lo ha permesso. Non è forse giunto il momento di estirpare la radice dell'abisso sessuale di potere nei rapporti affettivi e riproduttivi, di subalternità e di lavoro? Ossia il patriarcato, così ci chiede Elvira Vannini, ottima docente e curatrice che sta a Milano, che anche lei appunto ha bazzicato a Bologna per anni. Elvira ha sempre lavorato con l'interesse del mondo femminile, cioè cercando di controbilanciare queste iniquità che abbiamo in Italia, che abbiamo in tutto il mondo del lavoro italiano, ma che nel mondo dell'arte effettivamente sono più leggere, cioè sono, no, più leggere è il termine sbagliato, sono più effimere, sono più nascoste, sono più non esplicitate, come dice lei, perché effettivamente, e alle volte me ne accorgo anche, no, mostra di 6 artiste, curatore maschio, direttore del museo maschio, no? Praticamente tutti maschi, ovvero ho anche posizione, che ne so, all'interno di un museo ci sono curatrice, assistente curatrice, tutti quelli che lavorano nei piani bassi sono donne, ai piani alti il capo è sempre un maschio, e questo non solo nel mondo dell'arte ma tanto anche nel mondo dell'industria, eccetera. E finché succede nel privato, naturalmente non c'è tanto che si possa fare. Nel pubblico, naturalmente, la problematica è più ampia, ma guardando appunto il Parlamento italiano, poi questo non ci meraviglia. Comunque è interessante la riflessione e il dibattito inerente al movimento hashtag MeToo, che di cui appunto si è curata Santanastro nelle pagine iniziali di questo numero di Art Tribune. A pagina 76 abbiamo finalmente, in realtà ho scoperto delle cose che non sapevo, abbiamo finalmente una bella doppia pagina che racconta che c'è una grande retrospettiva al Kunstforum di Vienna dell'opera di Man Ray. Adesso lo conoscono tutti, anche solo negli anni 80 era veramente un artista sottostimato, e in realtà ho scoperto una cosa interessante, che ultimamente ha venduto, cioè delle aste hanno venduto delle sue foto per milioni di dollari, che questo devo dire che mi ha sorpreso molto, perché veramente negli anni 80 potevi comprare una foto di Man Ray probabilmente per l'equivalente di 1000 o 2000 euro, adesso valgono dei milioni. Il che mi fa molto piacere. Io sono sempre stato un grandissimo estimatore di Man Ray. Man Ray è un artista a cui niente fa paura, introduce così la conversazione Ingrid Brügger, direttore del Kunstforum di Vienna, e spiega: con le sue attività fa saltare i confini tra alto e basso, è fotografo di moda, crea cover per i dischi dei Rolling Stones e tanto altro, ha un'attitudine transmediale che un Picasso non si sarebbe mai permesso, e questo è un aspetto molto moderno. Entra subito nel vivo la discussione con le due principali artefici della mostra, la direttrice del museo per l'appunto, Ingrid Brügger, e la curatrice Lisa Horner-Kreil, che nel, nel cercare di cogliere l'esprit di un personaggio assolutamente decisivo per le sorti dell'arte contemporanea. Naturalmente vi invito ad andare a Vienna, ci proverò ad andare anch'io, so che non succederà mai. Sta su fino al 24 giugno al Kunstforum. Io fra l'altro a Vienna non ci sono neanche mai stato, per cui chissà, potrei anche pensare di andarci. Come probabilmente sapete, Man Ray è un artista americano di origine ebraica, Emanuel Radinsky, nasce nel 1890 a New York e poi conosce nel 15, se non sbaglio, già aveva fatto delle cose proto-dadaiste, lavorava come grafico ma nel frattempo voleva dipingere, poi dopo un certo punto si innamora di una tizia, va a finire a Ridgefield in questa sorta di comune, stiamo parlando del 1912-1913, in questa sorta di comune pre-frichettona, perché voglio dire negli anni 12, negli anni 10, e lui comincia già a fare delle robe strane, tipo stampa autonomamente questa Ridgefield Gazook, che è una sorta di fanzine, una proto fanzine infatti, una sorta di fotocopiata, foglietto fotocopiato con alcune battute, altri disegni veramente proto Dada naturalmente, che invece lui diventa uno degli esponenti americani più importanti del dadaismo insieme a Marcel Duchamp, che invece è francese naturalmente, ma che loro due si incontrano proprio negli anni in cui Dada nasce, il movimento Dada ufficialmente nasce in Svizzera. E il primo loro incontro è così, è proprio a Ridgefield. Qualcuno porta Duchamp a vedere questa comune di artisti e loro si incontrano, si guardano, si piacciono e fanno una. E siccome Marais non sapeva il francese, Duchamp non sapeva l'inglese, giocano a tennis in un campo senza rete. E già questo è l'inizio di un idillio, perché loro diventeranno amicissimi fino alla morte di Duchamp nel, non mi ricordo, ma nei forse fine anni 60, primi anni 70. Marais invece muore nel 76 e Marais fra l'altro viene in Italia spessissimo, anche a Bologna è stato moltissime volte, perché era amico di Dino Gavina, che gli aveva commissionato un'opera che è questo specchio che fra l'altro trovate spessissimo nelle case dei bolognesi, che è questo specchio ovale con questa scritta Le Grand Transparent. I grandi trasparenti, cioè sarebbe un gioco di parole tra nonni e genitori trans, insomma, e naturalmente significa i grandi trasparenti. Detto questo, mi sono perso completamente su Marais lo conosciamo come fotografo, come inventore dei radiogrammi, che sono queste immagini create appoggiando degli oggetti sulla carta fotografica direttamente. Lui scopre questo trucco, diciamo, cioè questa cosa inavvertitamente, accendendo la luce per sbaglio del suo studio fotografico dove sviluppava e stampava le foto, e si accorge appunto che questa cosa è fantastica. Non solo, scopre anche la solarizzazione, che anche quello è un metodo, alcuni dei suoi ritratti sono veramente dei capolavori di solarizzazione, nel senso che utilizza la luce diretta della lampadina del suo studio per offuscare la luce che invece non era passata nel negativo che stava stampando, scoprendo il modo per fare degli effetti veramente surreali, per cui alcuni suoi ritratti sono innanzitutto sono pezzi unici, perché la solarizzazione si può fare solo una volta che la stampa fotografica è stata immersa nel liquido che lo sta sviluppando. E appunto lui impara, cioè scopre il metodo per poter fare, cioè riesce ad avere la maestria per gestire questa luce che effettivamente ha perfettamente senso che un artista il cui pseudonimo è Man Ray, uomo raggio, riesca appunto a fare queste cose. Lui era un fantastico pittore, lui era anche l'autore di queste labbra volanti che spessissimo sono esposte come emblema del movimento surrealista, perché lui appunto ha attraversato queste due grandi correnti artistiche, il dadaismo e il surrealismo, e devo dire che secondo me, nel mio modesto parere, lui è stato anche fondamentale per l'importanza della carriera di Duchamp, perché Duchamp sì è l'autore dell'orinatoio che scardina i parametri dell'arte contemporanea, ma spessissimo secondo me è influenzato soprattutto in maniera umoristica dal metodo zigzagante del pensiero di Murray. La mostra è a Vienna, ahimè, e non a Bologna. Chissà se prima o poi il Mambo o qualche altro museo non troppo lontano ci dedica una bella mostra di Murray, sarebbe veramente ora. Ma comunque, nel frattempo, quello che possiamo fare è prendere una copia di Art Tribune e sfogliarla fino a pagina 76, dove appunto c'è una breve intervista alla curatrice e alla direttrice, e anche appunto un piccolo riassunto della vita di Murray. Ecco, è interessante che nella mostra ci sono anche, che ne so, un videoclip dei Depeche Mode di Barrel of a Gun, dopo me lo vado a vedere, e la pubblicità di un profumo di Jean-Paul Gaultier, per far vedere quanto l'importanza visiva di Murray è stata forte nel secolo scorso e tuttora continua a funzionare, perché alcune immagini, sto pensando per esempio alle Violon d'Angre, che è questa schiena con i buchi di un violoncello, no? Quanto questo ormai siano nell'immaginario comune di tutti. Not the one. visto che li abbiamo menzionati, questi naturalmente erano i Depeche Mode con Barrel of a Gun, ed effettivamente mi sono andato a vedere il video su YouTube, di cui troverete il link su www.coxospaziale.blogspot.com, ed effettivamente le influenze di Man Ray sono veramente evidentissime, dal cantante che ha gli occhi chiusi ma disegnati aperti, così come appunto aveva fatto Man Ray in un stavo per dire video, ma effettivamente erano dei video primordiali, ovvero erano dei lavori cinematografici molto corti, fatti con i Super 8 o i 16 mm, per cui opere da tre minuti, uno dei quali appunto era Il mistero del castello di non mi ricordo più, in cui appunto c'era, no, però forse era in Emak Machia, comunque vabbè, non mi ricordo, ma in uno di questi, no, forse era nell'Étoile, no, era assolutamente, era nell'Étoile de Mer, nella Stella di Mare, c'era questa Kiki de Montparnasse che era la sua musa, oltre che fidanzata, che appunto aveva gli occhi chiusi ma dipinti aperti, per cui lei si presenta con gli occhi aperti e quando li chiude in realtà non si chiudono, e tutto questo era una storia veramente surreale di questa stella di mare che vagava in giro per Parigi, se non sbaglio, eccetera. Comunque, enough of Man Ray, è ora del l'angolo della menzione. Esattamente, l'angolo della menzione. Dicevamo, in realtà hanno inaugurato tutti la settimana scorsa, per cui di arte contemporanea a Bologna ce n'è poca, ma ce n'è a Imola. Dunque, sabato 31 marzo alle ore 17, Casa Fragile, Liuba, Lore Keirus, Amanda McGregor, Fabrizio Rivola, Dragoni Russo, Simoncini Tangi. Il giorno 31 marzo 2018 lo spazio di Residenza e Resistenza, Novella Guerra, ci ospita con una mostra e breve residenza di alcuni artisti, curatori e amici. Negli ultimi due anni Novella Guerra è stato un luogo e un progetto itinerante che ha promosso interventi di arte partecipata con Quando un posto diventa un luogo, così come incontri di approfondimento in cui si è riflettuti insieme sulla portata e sulle modalità di azione degli spazi indipendenti. Vedi Nest a Torino, a cura di Olga Gambari in collaborazione con Maura Banfo. Alla luce di questa esperienza nasce Casa Fragile. Più che una mostra, si tratta di un racconto fatto di persone, lavori che raccontano persone e legami, e si fanno capitoli di un ulteriore racconto in cui i pensieri dell'uno trovano continuità narrativa nel lavoro dell'altro. Un po' contorto come discorso, però sappiamo che sarà fantastico, perché conosciamo Annalisa Cattani, che è appunto la presidentessa dell'associazione Novella Guerra, e questo è allo spazio Novella Guerra in via Bergullo 15 a Imola. È un posto veramente sulle colline, fantastico. Troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutte il link per arrivarci, perché fra l'altro è abbastanza complicato, è dietro all'autodromo, poi si parte su per la collina, eccetera. Se volete, non avete impegni religiosi e volete andare a fare una gita fuori porta, domani pomeriggio sicuramente è la cosa giusta da fare. Dopodiché mi sono ricordato, ma adesso non mi sovviene, che Stefano Scheda mi aveva mandato un WhatsApp con qualcosa che succedeva a Imola anche lui. No, niente, è il sabato 7 aprile, adesso me lo mando per email da solo a coxospaziale@gmail.com, così lo mettiamo nelle menzioni della settimana prossima, visto che appunto passa, è del 7 aprile. Comunque sappiate che a Imola di nuovo la settimana dopo ci sarà una personale di Stefano Scheda, altro artista fantastico di quelle zone, e se non sbaglio lui non è di Portico di Romagna, ma di quelle zone, ma è anche lui un artista da scoprire. Molto bene, per cui l'angolo della menzione finisce qui stasera, e fra un po' finisce anche Coxo Spaziale. Prima però vogliamo ascoltare un pezzo che ci è arrivato, perché noi abbiamo queste fantastiche music submission, ovvero chi di voi fa musica e fa musica coxica o anche no, È da un po' che non ci manda niente la nostra amica Tamara Bubble da dov'è lei? In Wisconsin o comunque in un qualche stato un po' strano degli Stati Uniti, no? Invece spesso riceviamo appunto pezzi da questa casa discografica dub e reggae che si chiama Boom Rush Promotions, e stavolta ci ascoltiamo A Plan featuring Kida by Razouf. Kida, Razouf, what you know? Treading up the hills in a far, far land. Make a journey if you want a meditation. Listen keenly if you get a revelation. Of the world frame in any situation. Treading up the hills in a far, far land. Make a journey if you will a meditation. Listen keenly if you get a revelation. Of the world frame in any situation. The pastor man, we know say him have a plan. Invite the people fit on Christian. The politician, we know say him have a plan. Can't know the youth with them destruction. The rasta man, we know say him have a plan. Teach all the youth them right from wrong. The policeman, we know say him have a plan. Lock up the youth them sick of Babylon. Treading up the hills in a far, far land. Make that journey if you will a meditation. Listen keenly if you get a revelation. Of the world firm in any situation. Treading up the hills in a far, far land. Make a journey if you will a meditation. Listen keenly if you get a revelation. Of the world firm in any situation. All over the globe. In Africa and me say in Europe. All kind of nation dem a link up. Pula Olympics a with a World Cup. And as a Jamaican the thing a fi up. Times well hard but me nah go give up. Ganja tea that a fi in a my cup. Right ya know you know a it me a sip up. E concludiamo con questa atmosfera, direi Radio Città Fujikana, visto che spessissimo in questa radio si suona reggae, che non è un genere di musica che io devo dire seguo tanto, anzi, però effettivamente questo era un pezzo bello, un pezzo che mi è piaciuto. E così concludiamo la nostra 213esima puntata di Coxo Spaziale, come al solito senza Fedra, che però prima o poi tornerà, anzi ci dice che avremo modo di scoprire cosa succede a Londra grazie a lei la settimana prossima, e niente, e come al solito vi lasciamo con le fatidiche parole del direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Io ero Stefano W. Pasquini, questa è stata Coxo Spaziale episodio numero 213, ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 20, e niente, siccome sono ateo non vi dico buona Pasqua, me ne frego. Listen keenly if you get a revelation. Of the world firm in any situation. The pastor man, we know say him have a plan. Invite the people fit on Christian. The politician, we know say him have a plan. Can out the youth with them destruction. The rasta man, we know say him have a plan. Teach all the youths them right from wrong. The policeman, we know say him have a plan. Lock up the youth.